latte pulito, le alza il vestito, lo sguardo rapito, non vedo che lei, mi faccio coraggio, serpeggio, carteggio, felino m'appoggio, la porto con me, pungente l'odore del suo sudore, accende l'amore, mi vampa in me, mi prende la scossa, la pare si ingrossa, il viso s'arrossa, sorride di me, penso di freno, ma grappo al suo seno. Finale banale del solito film, in preda all'angoscia, sfinito s'ammoscia, sta lì sulla coscia, mi sento morire, ma non contento ancora un momento, di puro lamento mi servo così, apro il cassetto, ci trovo un rametto, tra nubi di fumo lei torna da me, penso di freno, ma grappo al suo seno.